La scrittrice Barbara Alberti ha scelto l'esilio. Era da tempo nota la sua decisione di ritirarsi dal mondo. Oggi sappiamo che vivrà, fino alla fine dei suoi giorni, nel faro di Capo Finisterre, all'estremo nord della Spagna. Шарманка, шарлатанка, как сладко ты поешь. La guardiana del faro. Шарманка, шарлатанка, куда меня зовешь? Voci e pensieri per Barbara Alberti. A 18 anni Alvaro, mio padre, era il più elegante del paese. La gente si affacciava per vederlo passare. Lui dondolava un bastone d'avorio e salutava tutti. Ma con una sfumatura di sorpresa, come fanno gli uomini che si incontrano a Parigi o Nova York. Invece era sempre la solita gente, Enea del Pellaro, la Giuseppina del bar, Checco lo spazzino. Li trattava tutti come personaggi di un'avventura aperta a misteriose possibilità, come trattava se stesso. Il suo regno vacillò una volta. E fu quando Filiberto il Secco, che già gli era inferiore di soprannome, tornò dagli studi. Filiberto non era ancora sceso dal treno di Roncivalle e già si sapeva che le sue valigie erano piene di abiti che avrebbero fatto impallidire perfino il ricordo di mio padre. Si sfidavano la domenica, davanti al paese riunito. Mio padre andava alla messa a Santa Croce, dove corteggiava una dozzina tra serve e signore. Filiberto il Secco frequentava invece la chiesa della Dolorata, dove porgeva l'acqua santa alla marchesina Gusberti. Le due chiese erano una di fronte all'altra. A mezzogiorno mio padre e Filiberto uscivano dalla messa in uno scampanio che ingrandiva la loro rivalità e ogni volta si fronteggiavano in un duello muto. Mio padre si rimetteva il cappello col gesto di D'Artagnan. Filiberto sfoderava la cravatta come una spada. Le campane tacevano. Era allora che mio padre faceva scricchiolare le scarpe, giallo raicone. Filiberto tintinnava il portachiavi d'oro con uno stemma inventato. Mio padre allora roteava il bastone e col bastone roteava la piazza e i cuori delle donne che battevano per lui. Gli uomini sbiancavano e non riuscivano a odiarlo dalla voglia d'essere al suo posto. E se ne andava per primo, come se di nulla gli importasse, come se di nulla fosse fatta la vita e perfino la sua vittoria, come se di nulla fossero fatti Filiberto e i suoi abiti che rimanevano a dissolversi nell'aria equivoca della domenica tra la gente che si disperdeva. Figuriamoci quando questo dandy di paese si innamora di Maria, la figlia del macellaio, quest'uomo durissimo che non parlava mai. E questa è la storia di come Alvaro va a chiedere in sposa Maria dal nonno Umberto. Живописцы, окуните ваши кисти в суету дворов арбатских и в зарю, чтобы были ваши кисти словно листья. Словно листья к ноябрю, чтобы были ваши кисти, словно листья к ноябрю. Finalmente il nonno Umberto si decise a parlare con mio padre. Gli aveva fatto fare parecchi giorni di anticamera. Era impegnato a insaccare il maiale. Lo ricevette nell'orto, col gatto Loli sulle ginocchia, su una sedia che scricchiolava. Il nonno Umberto guardò mio padre e non disse niente. Mio padre sfoderò un sorriso. Il nonno rimase serio. Mio padre disse: «Grazioso orticello!» Il nonno zitto. Mio padre disse: «Il motivo che mi porta qui!» E lì si fermò, per la fissità del nonno, per il dubbio improvviso che quell'uomo, quell'orto, quel gatto fossero fuori del mondo, in una dimensione così lontana dalla sua che mai più ne sarebbe uscito. «Le sarà noto il motivo!» disse poi mio padre, disperando di poter dire più altro per tutta la vita. Il nonno non rispose. Nella pozza sotto la pergola cadevano gocce verdi. Il torrente frusciava, il rampicante chiudeva l'uscita. «Sua figlia!» disse mio padre in una frase staccata. Il nonno tirò fuori dalla tasca una salsiccia, la diede al gatto. Il gatto masticava in un rumore d'inferno. A mio padre cadde il bastone sull'insalata. Il nonno fece una mossa con la testa, indicando il bastone. Mio padre si precipitò a raccoglierlo. E quando di nuovo l'ebbe in mano, di nuovo disse «Sua figlia!» e di colpo più niente. «Ma!» disse il nonno Umberto. E l'animo di mio padre si riempì di speranza. Poi si accorse che parlava col gatto e gli mostrava la tasca vuota, senza più salsicce. Lungo durava il silenzio. Lente cadevano le gocce. Eppure non faceva mai notte sulla faccia del nonno, sul suo gatto ingordo, sul radicchio offeso dal bastone d'avorio. E quando il tempo fu colato via, in un'eternità senza senso, il nonno Umberto disse: «La mia fiola è una iena!» In italiano, mia figlia è una iena. E dopo un'eternità più atroce delle altre, perché interrotta prima e più bruscamente, chiese distratto: «Sei tu che la sposi?» Passò una barca di pescatori nel torrente, sotto il muro dell'orto. Gli uomini gridarono qualcosa. Il nonno tirò un sasso verso la barca, quasi senza muoversi. Si udì una bestemmia, poi il nulla. E da quel nulla, il vecchio chiese al giovane, senza cattiveria e senza insistere sul fatto che immensamente se ne fotteva: «E tu che sai fare? Tu che sai fare?» Con meraviglia mio padre si accorse che il gatto di nascosto rideva, e con raccapriccio comprese che rideva di lui, tra le mani tozze del macellaio, tra le felci e i gerani. Ed un tratto ricordò che la sua vita, come tutte, era immutabile d'una, e di seguito, senza emozione, recitò tutto insieme: «So giocare, bere, mentire, baciare la mano, so tirare di schermo e pistola, ballare il tango per 24 ore, non so insaccare il maiale». «E ci manca altro», disse il nonno, «questo lo fa solo io». In tutto il mondo. Муставая, пусть качнется, как очнется, пусть начнется, что еще не началось. Вы рисуйте, вам зачтется, что гадать нам удалось, не удалось. Вы рисуйте, вам зачтется, что гадать нам удалось, не удалось. Dopo che erano già sposati, tornando dalla città, Alvaro portò alla Maria una scimmia piccola dal muso bianco. La chiamarono Ghibli. Era un maschio. Ghibli aveva un solo problema: collocare in qualche modo il sesso, che teneva sempre dritto in mano, mentre nonna Santina faceva finta di non vedere. E dopo qualche giorno saltò sulla schiena di Loli, il gatto prediletto del nonno, e lo violentò prima che potessero impedirlo. Tutte dissero che Loli aveva sopportato l'affronto perché vecchio e stanco, non certo per vizio. Il nonno Umberto non era presente alla scena, ma gli fu raccontata. Lui scosse la testa. Non c'era niente da dire. I tempi cominciavano a sopraffarlo. È in arrivo un messaggio nella bottiglia per Barbara Alberti. Ho 28 anni e dai 17 ai 24 ho fatto la escort, un mestiere non peggiore di tanti altri. Se dico che sono bella non è per stupido orgoglio, ma è come se dicessi che una macchina è veloce. Ho avuto l'occasione di farlo al top, molti soldi, clienti scelti e discreta protezione, una vera affarista, le idee chiarissime. Ma ho incontrato lui. Per conquistarmi ha fatto la parte del ricco. Mi affascinavano i suoi compensi principeschi e alzavano il livello delle mie prestazioni come l'artista che si sente capito. Forse ho esagerato, perché mi sono innamorata, pur avendo saputo che per fare il grande con me si era riempito di debiti che ho prontamente pagato. Però non avevo nessuna intenzione di lasciare il mio lavoro. Lui, 30 anni, nessuna occupazione fissa, contavo sulla durezza del mio carattere e del mio scopo per conservare sia lui che il mestiere. E invece non ce l'ho fatta. Sentivo di appartenere a lui finché mi ha chiesto di sposarlo. Sposare una escort non è come una volta, non le offri nessuna salvezza. Oggi coi soldi fai finta di essere chiunque e non è il matrimonio lo stato più invidiabile. I primi tempi si godeva la felicità di aver trasformato una donna di tutti nella donna di uno solo e lì si è rovinato il matrimonio, perché finita la gelosia è finito anche il desiderio. Ormai da un anno mi tradisce con una escort, Avrel. Una sola via per riconquistarlo: qualche avventura con altri, magari facendomi pagare come allora. Senza il peccato non valgo niente e io sono malata di fedeltà. Come escort non ero felice, come moglie sono disperata. Una moglie. Questo è l'esempio della immobilità odiosa di un immaginario erotico dove l'immaginazione non basta. Questo è il mistero nero del matrimonio e di tanti amori. Qualcuno ci sposa per una qualità passeggera e poi la pretende da noi sempre. E vuole dannarci alla ripetizione, mentre magari, come il tuo caso, siamo nati per la scoperta, per il moto. Qui Capitaneria di Porto, come richiesto l'attrice Eva Robbins è in collegamento. Barbara Alberti è autorizzata a parlarci. Pronto, Eva? Ciao. Senti, Eva, dove sei? Sono a Verona, sono al Teatro Nuovo di Verona, che stiamo facendo tutto su mia madre, con la regia di Leo Muscato, con Elisabetta Pozzi e Alvia Reale. E tu sei a grado, vero? E io sono a grado. Dai, ti prego, parlami di grado te. Di al mondo, parlami di te come a grado. Diciamo che è un personaggio scoppiettante che cerca di mascherare col bon ton, perché ha sempre questi scianellini che si fa da sola, un animo grande, certo, ma una natura un po' grezza. E allora sì, insomma, cerca di moderare i gesti che la potrebbero far somigliare appunto a una transessuale un po' greve. C'ha il boccione grosso, in modi un po' artificiosi, però io mi ci diverto molto là dentro. Senti Eva, ma ecco, tu sei stata tra le primissime persone in Italia, diciamo, a dimostrare un sesso a tre dimensioni, ovvero sia a uscire. Esattamente, sì. Com'è stata e com'è la tua vita in questo senso? In questo senso, guarda, devo dire, avendolo fatto, essendo stata un'antesignana in questo campo, ho liberato la mia identità, che prima da privata è diventata pubblica, ed è molto più facile adesso lavorare ed essere quello che io sono veramente. La gente mi ama se mi ama, se non mi ama si volta dall'altra parte, però insomma non è costretta a ignorarmi e io esisto, ecco. Come si configurano l'amore e il sesso nella tua storia? Ma l'amore, sai, fa parte delle grandi ustioni della mia vita, nel senso che l'abbiamo provato, abbiamo capito che scotta. E come dice Leopardi, o me se questo è amor come i travaglia. Capito? Stendhal diceva: l'amore è un fiore delizioso da cogliere sul ciglio di un abisso spaventoso. E questo è. Abbiamo visto, abbiamo capito che in letteratura, ma anche lì a volte va a finire molto male, e l'abbiamo provato, e allora adesso ci dedichiamo agli amici, al giardinaggio, al sesso, alle sveltine, ecco, anche. Sveltine, non più passioni, non ti credo, però cioè, voglio dire, non ti sei certo chiusa. Ma tu sai benissimo che l'amore arriva come un assassino alle spalle, prima o poi mi beccherà di nuovo. Come un brigante, sì, è vero. Quindi al momento c'è il giardinaggio. Ho il cuore disoccupato. Però ti dedicherai pur sempre alla seduzione, perché nella tua natura. La seduzione fa parte del giardinaggio. Dell'accettazione anche del sé. Andando verso gli anta, l'amore, la sensazione della seduzione c'è sempre, però con più è più pudica, non so come dire. È un sentimento che ritrosia, paura di essere più ferito e più fragile, c'è meno la ventatezza dei vent'anni, capito? Perché sono stati molti incidenti di percorso. Ti ricordo proprio ragazzina, la prima volta che ti ho visto a casa di Irene Ghirco, molti, molti anni fa, bellissima, aggraziatissima, e sempre come un po' chiusa in te stessa, cioè con una certa distanza, non alterigia sicuramente, ma una certa distanza però. E se rivedi quella ragazzina, guarda, mi è rimasto impresso, avevi una camicia blu notte, un po' a stelo di fiore intorno al collo. Che distanza c'è tra te e questa persona oggi? Come la vedi, come ti vedi? Beh, mi fa tenerezza pensare... Non c'era uno che non avesse gli occhi addosso, Ma perché sai, le persone che si schermiscono, che sono chiuse, probabilmente attirano di più che le persone che blaterano, che sono sempre lì, insomma, comunque a manifestarsi. Ho tenerezza per quell'immagine, ma una grande ammirazione, perché avevo una forza proprio da guerriero che avevo preso probabilmente da mia madre, che mia madre è stato l'uomo che io avrei dovuto essere. È in arrivo un messaggio nella bottiglia per Barbara Alberti. Nel mio matrimonio c'erano i tradimenti, ma una cosa mi è rimasta sempre fedele: la casa. Quando mi facevano fare la serva, sotto i baffi ci gongolavano e si pensavano: ah, come sono furbo io, che qui mi godo il fresco e la televisione, mentre quella di là sgobba. No signore, anch'io zitta zitta mi divertivo, perché gli uomini si credono che una donna vuole solo stare a guardare il loro teatro. Invece una donna, io per esempio, con la scusa che lavavo, spazzavo, stiravo, cucinavo, ero sempre occupata, così mi scocciavo di meno a starli a sentire. E poi, dopo tante delusioni, nell'amore non ci credo più, e nell'amicizia meno che meno. La vera serenità me la dà fare lucido un pavimento, innaffiare una pianta. Finché posso avere la contentezza di tenere su la mia casa come un fiore, che me ne importa dell'amore? Casalinga felice. Beh, la tua è una visione estrema, però alla fine hai ragione. perché è liberamente vissuto. Il lavoro della casa è bellissimo. Sai, un po' ti capisco, perché c'ho il callo della penna e il callo della scopa. Il mondo è bruttissimo, cambiarlo è difficilissimo. E allora, come il Candido di Voltaire, almeno i 2 metri intorno a noi, fare quello che possiamo. Io certe volte alla menzogna sociale preferisco stare fra le cose che richiedono bravura, perché non so, una camicia che stiri, non è che puoi raccontare delle balle, o ti viene bene o no. Ci sono molte controindicazioni rispetto al lavoro domestico, malattie che si contraggono, ben più gravi di quella ovvia del mal di schiena. Per esempio, la distorsione del rapporto con quelli che amiamo. Perché io ero partita con grandissimo slancio, però alla fine, a un certo punto della mia vita, mi ero ridotta così ebbra di fatica da temere la presenza dei miei familiari come portatori di sporcizia, pretese e disordine. Perché in sé essere artefici di pulizia è cosa bella, e chinarsi sulla fisicità degli altri è un compito sacerdotale. Però alla fine si finisce guardiani di mutande e calzini. Non si può avere rapporto con le persone solo attraverso i loro rifiuti. Alla lunga ti contamina e si diventa noiose. Soprattutto perché, dato che nessuno apprezza quel lavoro, finiamo per sottolineare noi i piccoli miracoli e si scivola nel rinfaccio, che è niente ogni buona azione. Perché poi servire nobilmente è un'ambizione ardua, ma essere serviti con altrettanta nobiltà è una cosa da paradiso o da mito cortese. Nel quotidiano, più sei disponibile, più perdi di valore, meno si ha pietà, appartieni agli altri. Ho constatato gli estremi della tortura. Quando credi di essere libera, ecco che il vortice familiare ti riacciuffa e c'è un labirinto di minute schiavitù in cui ti colpisce proprio l'inadeguatezza di appartenere appunto agli altri. Ecco, allora voglio mandare un saluto non soltanto a te, ma alle casalinghe, le mie sorelle, che incontro trafelate come me nei supermercati, nei mercati. Questi elfi che, gli unici che sfuggano alla lottizzazione del pensiero. Le casalinghe alla fine sono un estremo vento di anarchia che attraversa la nostra società obbediente. Mi dicono qui al Faro che finalmente anche gli studenti si sono ribellati. Meno male, perché pensavo che fino a questi giorni pensavo che l'unico potenziale rivoluzionario italiano fossero le casalinghe. Perché sono gli ultimi individui, sono le ultime che coltivano il fiore scandaloso e desueto della scelta. Ma fosse anche solo per decidere cosa si fa da mangiare, ma vi pare poco? Decidere come nutrire equivale a decidere come le persone devono essere. Io le incontro nel momento più felice, più lieto, fare la spesa, agili come pelle rossa, guidatrici spericolate di carrelli armati, specialiste del grana, del detersivo, dell'amore domestico. È un luogo comune dire che riferirsi alle casalinghe quando si parla di persone di gretti costumi e di corto intendimento. Ma non è vero. E ve ne accorgerete se guardate questo variopinto esercito sanculotto dei somari del focolare, questi robusti agenti della poesia, questi angeli. Pronto, Paola? Sì, buongiorno. Allora, io sono sposata da tanti anni, ho avuto appunto 5 figli, lavoro, faccio una vita anche abbastanza faticosa, insomma. E poi a un certo punto, diciamo che il mio matrimonio non è molto più felice da un paio d'anni. Perché? Ma perché non mi sono più sentita voluta bene per quello che sono veramente. Non mi sono più sentita libera. Diciamo che è sempre stato un pochino così, però negli ultimi anni si è proprio accentuato questo mio desiderio di essere felice, di essere libera, di sentirmi libera. In quanti anni avete fatto 5 figli? E dal più grande a 18 anni e il più piccolo 5. E senta, ma questa covata appunto se l'è fatta da sola o suo marito l'ha aiutata? Cioè siete stati una coppia in questo senso? Sì, diciamo di sì, però mio marito mi ha sempre aiutato un po' poco, nel senso che è tanto impegnato fuori di casa e io sono sempre stata aiutata dai miei genitori. Purtroppo poi è venuta a mancare mia mamma un anno fa e quindi abbiamo risentito un po' di questa mancanza. Sì, figli l'abbiamo fatti insieme, diciamo che mio marito soprattutto è molto credente, molto cattolico, quindi certi accorgimenti per non avere figli non si potevano usare. Quindi se i primi 3 sono venuti, diciamo, desiderati, gli altri 2 sono arrivati. Quindi io l'ho accettati e sono felice di averli, però diciamo che l'impegno è stato notevole, oltretutto lavorando. Solo che questo ha un po' limitato poi la mia vita, perché diciamo che io ho dato tutto per i figli, per la famiglia, per farli star bene, sono dei ragazzi molto sereni. Molto e a un certo punto suo marito non l'ha guardata più? No, più che altro lui ha sempre dato molto per scontato che io ci fossi, che io fossi lì, come dire, io ti ho sposato, adesso tu ci sei, quindi non ho bisogno di farti la corte, non ho bisogno di coccolarti, non ho bisogno ci sei, curarti. moglie, che spesso vuol dire colei con cui non si fa più l'amore, sì, o frettolosamente. Comunque appunto senza tutto un corteggiamento prima, che io desideravo molto, perché dicevo, ma tu non puoi venire qui, non mi guardi per tutto il giorno, magari e poi per tutta la sera, chiappi, mi sbatti sul tavolo, apri le gambe, sì. Ascoltami, non funziona così. E allora arriva quell'altra storia. E allora è arrivata quest'altra storia, peraltro era una persona che io già conoscevo e che bene o male sono andata a cercare io. E così, sono andata a cercare io per sentirmi, perché è una persona che sapevo che mi avrebbe coccolato, che mi avrebbe voluto bene. Perché lui la corteggiava? In passato era stato così, sì. E quindi, e poi è uno che, come dire, sempre abbastanza a disposizione, ecco. E quindi l'ho riallacciato io questo rapporto ed è nata questa... Io non so come definirlo, perché è veramente una cosa grande, perché c'è dentro tutto, c'è dentro il sentimento, c'è dentro una passione, c'è dentro un modo di... Il sentirsi riconosciuta come persona e come donna? Sì, assolutamente sì. Mentre ormai per suo marito è trasparente, è una moglie. Esatto. E quindi da moglie si è ritrovata a individuo, a essere umano. Esatto, individuo. E beh, un bel passaggio, eh? Sì, libera. Poi questo mi ha dato lo stimolo per fare tante altre cose, cioè per riprendere in mano me stessa. Quindi, non lo so, ho fatto dei piccoli interventi chirurgici che procrastinavo da tanto, ma che mi avrebbero reso comunque più carina. Non c'era niente di medico sotto. Ho cominciato ad andare in palestra, ho cominciato a fare delle cose per... A esistere, ha cominciato a esistere. Esatto, sì, per quello che parlo di rinascita. Mio marito, appunto, se negli ultimi 2 anni già le cose non andavano bene, diciamo che adesso si è accorto che io sono cambiata. E come ha reagito? Ha reagito cercando di cambiare, di ricominciare a essere quello che non era forse mai stato, che era stato molto molto all'inizio. Cioè si è riaccorto di lei in qualche modo? Sì, in qualche modo ha capito perlomeno che io ho bisogno di questo. E lei cosa prova per lui? Ma un affetto. Un affetto. Lei è contentissima di questa storia? Sì. Prevede di mantenerla clandestina o cosa? Non sa. Sì. Allora, io prevedo di sì, ma solo per il bene dei ragazzi. Sì. Perché comunque non ho il desiderio di rifarmi un'altra famiglia, la mia famiglia è questa qua. Quindi lei non ha nessun sentimento di colpevolezza? Lei pensa che questa felicità le spetti? Sì, esatto, io penso che mi spetti. Bene, Paola, sì. Arrivederci e grazie, molti auguri. La ringrazio comunque. A lei, al suo amore, a tutto. Мне нравится, что вы больны не мной. Мне нравится, что я больна не вами, что никогда тяжелый шар земной. Riprendiamo la storia, questa è la terza puntata dell'amore crudele di Davidoff, il capo della polizia segreta di Tula, che da sempre innamorato della bellissima Natalia, riesce finalmente a sposarla. Lui è collezionista d'arte e ha una strana mania. Chiude a chiave i suoi quadri e li guarda da solo. E sarebbe capace di sfregiarli se qualcun altro li vedesse. E così sarebbe disposto a fare alla moglie se lei lo tradisse. Difatti lui non si fida di nessuno e la fa seguire dal suo agente più fedele, uno scialbo giovanotto di nome Lebedev. Un giorno, però, a sua volta segue la spia e scopre che proprio con lui sua moglie si incontra di nascosto in una casa fuori mano. Li vide entrare. Il capo della polizia segreta si abbassò a scassinare il portone, a guardare dal buco della chiave. Si aspettava di sorprenderli a letto, ma ciò che vide lo straziò più che se li avesse trovati avvinghiati. In quella stanza Natalia si faceva adorare. Si negava, ma concedeva all'altro un'intimità che con lui non c'era mai stata. Natalia era seduta in poltrona. Libeyedev, il giovane del cravattino giallo, inginocchiato davanti a lei, le tolse le scarpe, ne aspirò l'odore, le depose a terra, le sfilò le calze e si chinò a baciarle i piedi, perdutamente. Dopo alcuni minuti di questo lungo rapimento, le pose sotto i piedi un vassoio d'argento, stappò una bottiglia di champagne e con quello prese a lavarglieli e poi a leccarli, in un lento piacere che faceva tenere entrambi gli occhi chiusi. Davidoff rimase freddo. Buon lettore di Tolstoi, decise che la sera stessa le avrebbe tagliato la gola, come il marito ingannato in Sonata Kreutzer. Se ne andò in silenzio. Tornò a casa ad aspettarla. Aveva già il coltello in tasca. La sua opera d'arte si era mostrata ad altri. Non restava che distruggerla. Ma Dio fece giustizia prima di lui. Per la seconda volta Davidoff era pronto a uccidere e il destino gli sottraeva sempre le sue vittime. Mentre Natalia tornava a casa, la carrozza si rovesciò. Gliela riportarono agonizzante. E lui, che un istante prima voleva sgozzarla, quando la vide moribonda, si disperò. Solo ora capiva quale stupido errore sarebbe stato ucciderla. Troppo facile morire. Dura un attimo. Il vero castigo sarebbe stato fargliela scontare ogni giorno. Davidoff piangeva sulla moglie morente perché non avrebbe mai più potuto tormentarla. E invece, nonostante il responso dei dottori, la moglie si salvò, ma rimase sfigurata. Uno sfregio profondo le attraversava la faccia. E Davidoff fu preso da un amore nuovo. Solo lui capiva che quello sfregio era il velo della Gioconda, per celarla a tutti meno che a lui. Ha rubato la bellezza ed ora è tutta sua. Si è nascosta perché la veda lui solo, come fa con le opere d'arte, che chiude a chiave per guardarle in segreto. Il nuovo aspetto di Natalia era la cintura di castità e la sua chiave. Il ladro della Gioconda si sentiva in salvo. Non perché gli altri non la volessero. Il fascino di Natalia non era di quelli che uno sfregio può distruggere. Ma lui ha un vantaggio su tutti i rivali. Solo lui sa che lei è come prima, che ha solo messa una maschera. Anche Natalia fu presa da amore per il marito. Anzi, se ne innamorò per la prima volta e gli si attaccò morbosamente. Aveva bisogno di lui perché era l'unico a vederla così. L'unico a sapere che la sua bellezza era intatta. Solo più segreta. Спасибо вам и сердцем, и рукой за то, что вы меня, не зная сами, так любите. За мой ночной покой, за редкой встречи закатными часами, за наше негулянье под луной, за солнце не у нас над головами. La situazione si rovesciò. Adesso era lei ad essere gelosa. Questo indicò al marito la direzione della vendetta. Dedicò ogni sua energia a farla morire di sospetti. Aveva con lei un rapporto evangelico e perverso. L'accontentava in tutto e del tutto le sfuggiva. Intanto il suo potere era cresciuto a dismisura. Era diventato l'uomo più corteggiato del distretto. Il suo corpo massiccio, la testa rasata, venivano trovati affascinanti più di una folta chioma o di un vitino da ussaro. E lui, che detestava balli e ricevimenti, per punire la moglie non ne mancava uno. Usciva tutte le sere. La noia sterminata che gli costava era poi ricompensata dal veder soffrire l'infedele. Le nobili donne erano innamorate di lui, come in passato i gentiluomini avevano tutti perso la testa per Natalia. Dopo tanti anni Davidoff, l'escluso, chiudeva il cerchio vincendo superbamente la sua partita. Amministrava il suo fascino con freddezza. Ne illudeva qualcuna per non perderle tutte. Poi si sbrogliava mettendo avanti Natalia, alla quale elencava le galanterie e le proposte delle signore, lasciando in sospeso la conclusione, facendo intendere quel che non c'era stato. Se si lasciò strappare qualche bacio da un'altra, fu perché il suo profumo gli restasse addosso, facendo piangere la moglie. За то, что вы больны, увы, не мной. За то, что я, увы, больна не вами. Come richiesto, la Maria delle Acciughe è in collegamento. Barbara Alberti è autorizzata a parlarci. Ehi, ciao Maria. L'ultima volta che ci siamo sentite eri malinconica per il ricordo di quella storia dell'investigatore privato che ti aveva mandato quel libro. Ti è passata la malinconia? Sì, sì, mi è passata. Sono una farfallona, mi è passata. Anzi, oggi sono piena di ricordi. Ti ricordi quella volta che dovevamo fare il Capodanno a Napoli? Ah sì, che poi non ci siamo mai andate. Io mi ricordo bene, ci eravamo appena conosciute e io vedevo sta ragazzina magra, quieta. E poi rimasi fulminata perché la prima cosa che hai fatto mi volevi convincere a rubare delle pellicce. In un posto di ricchi, però bisogna dire la circostanza. Dunque, eravamo col nostro amico di allora, quello molto famoso, però non diciamo il nome oggi, No, non lo diciamo. Qui sono grata per averci fatto incontrare, Barbara. Era il 30 dicembre, sì, 30 dicembre, e lui disse vi porto a fare il Capodanno a Napoli, però passando per Firenze, perché c'era una mostra di Klimt. E poi tanto che eravamo a Firenze, lui era fedele al principio di Ennio Flaiano, ti ricordi che lo citava sempre, la distanza più breve fra due punti è l'arabesco. E così salimmo fino a Monte Carlo. Ecco, poi una volta lì, l'idea di andare a Parigi venne da sé, sempre seguendo altre mostre, Giacometti, Géricault, Munch. Arrivati all'aeroporto di Nizza, la versione di lui, del nostro amico, si trasformò in una memorabile scenata di avarizia. Lui si inferocisce perché noi non avevamo abbastanza soldi e ci dovete pagare il biglietto. E già mi ricordo perché noi invece abbiamo cominciato a belare, ma noi pensavamo ad andare a Napoli, non abbiamo portato abbastanza soldi e lui bella scusa. È vero. Comunque, insomma, siamo riusciti ad arrivare a Parigi distrutte alle 8 del mattino. Era buio pesto, lui era più buio ancora, faceva un freddo da lupi. Noi avevamo un cappottino, cioè tremavamo il nostro cappottino, lui insomma al solito camicia e giacca, come se niente fosse, però era verde dal freddo. Ci teneva il muso, ti ricordi? Sì, lui teneva il muso a noi e noi tenevamo il muso a lui, ma avevamo paura che il freddo lo uccidesse, quindi davanti a quella bancarella abbiamo provato a convincerlo a comprarsi un maglioncino. Però lui ci ha detto, no, adesso basta, cioè basta gli sprechi, vi ho già speso tutti i soldi per pagare i vostri biglietti, il maglioncino non me lo compro. Allora noi abbiamo fatto una colletta di 100 franchi, erano perché la sua dispettosa avarizia non gli impedisse di salvarsi la vita. E così con questa colletta praticamente lui si è comprato un golf da 80 franchi, se ne è messo in tasca 20, gli ha fatto una cresta di 20, era un golf bello bianco, tipo quello famoso di Marilyn Monroe, tutto a trecce bianco. E così era già il 31 di dicembre. E ne evitava. Sì, no, poi mi ricordo che abbiamo cominciato questa maratona di mostre, prima Giacometti, poi il Museo Marmottan per vedere Monet, Boldini e altro. E poi dopo questa giornata massacrante in cui non abbiamo toccato né acqua né cibo, ci siamo ritrovati la sera all'aeroporto di Nizza, molto più feroci e furibondi che all'andata, gli uni con gli altri. Si odiavano tutti fra di loro perché c'era la fidanzata di lui e c'era un amico, uno di quelli che si portava dietro, che erano tutti innamorati pazzi di lui, che era gelosissimo delle donne, delle sue fidanzate, ma anche di noi amiche. Si odiavano tutti fra loro, meno noi due, tu e io, che praticamente ci stavamo fidanzando per la vita. A un certo punto poi ti ricordi c'è stata una lite violentissima fra il nostro amico e tutti i gitanti e tu sei scoppiata a piangere, Barbara. Ma anche tu sei scoppiata a piangere. Ce ne volevamo andare tutti, poi alla fine non se ne andò nessuno. Passammo il Capodanno insieme a tutti, insieme allo Sporting Club di Monte Carlo, che è il dopolavoro più triste del mondo, nonostante le Rolls. E anche per quello. Io mi ricordo questa scena immortale. Entriamo nel guardaroba e c'era questa mandria di pellicce bellissime, incustodite, lussosissime. Allora tu le hai guardate, hai guardato i nostri poveri cappottini lisi e hai detto, pigliamocele. Come, dico io, come? E tu hai detto, scambiamole, no? Noi lasciamo i cappotti e ci pigliamo le pellicce. E io, no, è brutto. Io le pellicce non le voglio, mi ricordo che ti ho detto. E poi non mi fido dei ricchi, perché i ricchi rubano, mica si fanno derubare. Se pigliamo, appena tocchiamo la pelliccia, questi ci mandano lì tra i Doberman. No, e poi che figura facciamo fare il nostro amico, siamo venute con lui. E mi ricordo che per ammonirti, ti citavo le memorie di Casanova, che viaggia con un frate, che dopo che sono andati via da questa casa dove sono stati ospitati meravigliosamente, il frate gli fa vedere la refurtiva e gli rivela che ha rubato nella casa degli ospiti. E in quel momento Casanova si rende conto che ha fatto anche lui la figura del ladro ed è disperato. E invece non è così, infatti io ti dicevo, non sarebbe stato un furto, sarebbe stata una cosa da Robin Hood. Ecco, insomma, tu non me l'hai fatto prendere, questo è un gran peccato. Poi abbiamo incontrato Lara St. Paul col marito alla sera. La cantante, sì, che era nella notte. Che era molto famosa a quei tempi, Lara St. Paul, sì. La cantante col marito Cariagi, che era anche lui un famosissimo, con la figlia, e che ci hanno invitato nel loro appartamento sterminato all'Hotel de Paris. E lì il marito Cariagi ha aperto una carta geografica e ci ha detto scegliete, e ci voleva portare dappertutto con il suo aereo privato. Quindi abbiamo passato la notte a scegliere dove saremmo andate il giorno dopo: Madrid, Ibiza, no, Atene, no, Istanbul, insomma il mappamondo era nostro. E poi siamo finiti siamo finiti all'ospizio dei vecchi di Loano, dove c'era la mamma di Cariaggi a mangiare il salame. Abbiamo animato il pomeriggio della vecchia signora Cariagi e anche gli altri vecchi che si affacciavano alla porta, vedevano che ci divertivamo e quindi restavano anche loro. E dopo la merenda Cariagi e i suoi se la sono filati alla turca con una scusa tipo che l'altra figlia aveva perso al casinò, centinaia. Tanto ormai il colpo l'avevano fatto, no? Avevano sfangato il primo dell'anno con la madre, l'avevano fatta divertire, le avevano portato gli amici simpatici e quindi se ne potevano fregare fino all'anno dopo. Comunque, senti, sono passati 20 anni, mi viene sempre da ridere, però se ripenso che non mi hai fatto prendere quelle pellicce, ancora mi dispiace. E tu sei una gran moralista, Barbara, eh? Qui, capitaneria di porto. Interrompiamo Barbara Alberti che parla dal faro di Finisterre. L'energia a disposizione è esaurita. Riattiveremo il collegamento tra una settimana. La Guardiana del Faro è un programma di Barbara Alberti, ideato da Gianluca Nicoletti. Realizzazione tecnica di Alessandro Chiappini e Valerio Rocchetti. A cura di Gloria Guerrera.